Dopo un periodo di 3 anni, venne all'orecchio degli uomini di Giuda che Demetrio, figlio di Seleuco, era sbarcato nel porto di Tripoli con un grande esercito e la flotta, e si era impadronito del paese, eliminando Antioco e il suo tutor Lisia. Un certo Alcimo, che era stato prima sommo sacerdote, ma che si era volutamente contaminato nei giorni della secessione, accorgendosi che per nessun verso si apriva a lui una via di salvezza né ulteriore accesso al sacraltare, andò dal re Demetrio verso l'anno 151, offrendogli una corona d'oro e una palma oltre ai tradizionali ramoscelli di ulivo del Tempio, e per quel giorno stette quieto. Ma colse l'occasione favorevole alla sua follia quando fu chiamato da Demetrio al consiglio e fu interrogato in quale disposizione e mentalità si tenessero i giudei. A questa richiesta rispose: «I giudei, che si dicono asidei, a capo dei quali sta Giuda il Maccabeo, alimentano guerre e ribellioni e non lasciano che il regno trovi la tranquillità. Per questo anch'io, privato della dignità ereditaria, intendo dire del sommo sacerdozio, sono venuto qui, spinto anzitutto da schietta premura per gli interessi del re e dalla preoccupazione delle sconsideratezze delle suddette persone, in secondo luogo mirando ai miei concittadini perché, a causa del disordine della situazione descritta, tutto il nostro popolo viene non poco impoverito. Ora che sai queste cose in particolare, tu, re, provvedi al paese e alla nostra stirpe che va decadendo, con quella cortese benevolenza che hai con tutti. Fin quando Giuda è là, la situazione non può mettersi tranquilla». Dopo queste sue parole, gli altri amici, irritati per i successi di Giuda, si affrettarono a infiammare Demetrio. Questi, designato subito Nicanore, già a capo degli elefanti, e nominato lo stratega della Giudea, lo inviò con l'ordine di eliminare prima Giuda, di disperdere i suoi uomini e di costituire Alcimo sommo sacerdote del Tempio Massimo. Allora i pagani della Giudea, che erano fuggiti davanti a Giuda, si univano a massa a Nicanore, sapendo che le sfortune e le calamità dei giudei sarebbero state apportatrici di fortuna per loro. Quando seppero della venuta di Nicanore e dell'aggressione dei pagani, i giudei, cosparsi di polvere, elevarono suppliche a colui che ha stabilito il suo popolo per i secoli e che con segni palesi sempre protegge la sua porzione. Poi il comandante, dati gli ordini, mosse rapidamente di là e si scontrò con loro presso il villaggio di Dessau. Simone, fratello di Giuda, aveva attaccato Nicanore, ma era rimasto battuto per l'improvvisa comparsa dei nemici. Tuttavia Nicanore, sentendo parlare del valore che avevano gli uomini di Giuda e del loro entusiasmo nelle lotte per la patria, non si arrischiava a decidere la sorte con spargimento di sangue. Per questo mandò Posidonio e Teodoto e Mattatia a dare e ricevere la destra per la pace. Fu fatto un lungo esame intorno a queste cose, e quando il comandante ne diede comunicazione alle truppe, il parere risultò concorde e accettarono gli accordi. Fissarono il giorno nel quale sarebbero venuti a un incontro privato. Dall'una e dall'altra parte avanzò una lettiga e collocarono dei seggi. Giuda tuttavia dispose degli uomini armati nei luoghi opportuni per paura che si verificasse d'improvviso qualche tradimento da parte dei nemici, così buon accordo il convegno. Nicanore si trattenne in Gerusalemme e non fece alcun gesto fuori luogo, anzi licenziò le turbe raccogliticce che gli si erano unite. Voleva Giuda sempre alla sua presenza, sentiva un'intima inclinazione per quel prode. L'esortò a sposarsi e ad avere figli, e quegli si sposò, poté mettersi a posto e godere giorni sereni. Ma Alcimo, vedendo la loro reciproca simpatia e procuratosi copia degli accordi intercorsi, andò da Demetrio e gli disse che Nicanore seguiva una linea contraria agli interessi dello Stato. Aveva infatti nominato suo successore Giuda il sobillatore del regno. Il re, acceso di sdegno e irritato per le calunnie di quel genio malefico, scrisse a Nicanore dichiarandogli di essere scontento delle alleanze concluse e ordinandogli che gli mandasse subito ad Antiochia il Maccabeo in catene. Nicanore, sorpreso da questi ordini, rimase sconcertato e aveva ripugnanza a rompere le alleanze senza che l'uomo avesse commesso alcuna colpa. Ma poiché non gli era possibile agire contro la volontà del re, cercava l'occasione per effettuare la cosa con qualche stratagemma. Il Maccabeo, notando che Nicanore era più freddo nei rapporti con lui e che nei consueti incontri si comportava con durezza, arguendo che questa freddezza non presagiva niente di buono, raccolti non pochi dei suoi, non si fece più vedere da Nicanore. Quest'altro, accortosi di essere stato giocato abilmente da quell'uomo, salito al massimo e santo tempio, mentre i sacerdoti stavano compiendo i sacrifici prescritti, ordinò che gli fosse consegnato l'uomo. I sacerdoti dichiararono con giuramento che non sapevano dove mai fosse il ricercato, ma egli, stendendo la destra contro il tempio, giurò: «Se non mi consegnerete Giuda in catene, farò di questa dimora di Dio una piazza pulita, abbatterò dalle fondamenta all'altare e innalzerò qui uno splendido tempio a Dioniso». Dette queste grosse parole, se ne andò. I sacerdoti, alzando le mani al cielo, invocarono il protettore sempre vigili del nostro popolo. «Tu, Signore, che di nulla hai bisogno, ti sei compiaciuto di porre il tempio della tua abitazione in mezzo a noi, e ora tu, santo e signore di ogni santità, custodisci questa tua casa appena purificata, per sempre libera da contaminazioni». Fu denunziato a Nicanore un certo Razitz, degli anziani di Gerusalemme, uomo pieno di amore per la città, che godeva grandissima fama e chiamato per la sua benevolenza padre dei giudei. Egli infatti, nei giorni precedenti la rivolta, si era attirata all'accusa di giudaismo e realmente per il giudaismo aveva impegnato corpo e anima con piena generosità. Volendo Nicanore far nota a tutti l'ostilità che aveva verso i giudei, mandò più di 500 soldati per arrestarlo. Pensava infatti che prendendo costui avrebbe arrecato loro un grave colpo. Ma quando quella truppa stava per occupare la torre e tentava di forzare la porta del cortile e ordinavano di portare il fuoco e di appiccarlo alle porte, egli, accerchiato da ogni lato, si piantò la spada in corpo, preferendo morire nobilmente piuttosto che diventare schiavo degli empi e subire insulti indegni della sua nobiltà. Non avendo però portato a segno il colpo per la fretta della lotta, mentre la folla premeva fuori dalle porte, salì coraggiosamente sulle mura e si lasciò cadere a precipizio sulla folla con gesto da prode. Essi lo scansarono immediatamente, lasciando uno spazio libero, ed egli cadde in mezzo allo spazio vuoto. Poiché respirava ancora, con l'animo infiammato si alzò, mentre il sangue gli usciva a fiotti e le ferite lo straziavano, e attraversata di corsa la folla, salì su di un tratto di roccia, ormai completamente esangue, si strappò gli intestini e prendendoli con le mani li gettò contro la folla. Morì in tal modo invocando il Signore della vita e dello spirito perché di nuovo glieli restituisse.